Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Se vi dico do e che cacchio o caspiterina, avrete già capito di chi stiamo parlando. Sporchi, maleducati, volgari, demenziali, sono i Simpson, la famiglia televisiva più fortunata in assoluto. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, i cinque mostri gialli arrivati coi loro stravaganti vicini di casa della città di Springfield al 24esimo anno di vita. I ben pensanti, che molto spesso non riescono a vedere poco al di là del proprio naso, si scagliarono ferocemente fin da subito contro questo cartone animato, e non tanto per le parolacce, ma perché dicevano l'immagine di famiglia che ne usciva fuori era tutto fuorché perfetta. In effetti, Homer è un alcolizzato incapace di controllo, Bart un tempista senza futuro, Lisa una saccente della sinistra americana e Marge una bigotta. Ma si sbagliavano, perché al di là di tanta comicità dissacrante, il fulcro, il tema centrale dei Simpson è proprio la famiglia. In questa famiglia, così disastrata, così piena di difetti, ci si vuole bene. Si percepisce il calore del focolare domestico. Una famiglia lontana anni luce dalla perfezione irritante di altre famiglie televisive, ma forse proprio per questo più autentica, più vicina alla nostra realtà, anche lei non perfetta. I Simpson contribuirono a riportare il modello della famiglia nucleare, papà, mamma e figli, al centro della TV, un contributo non da poco. Oggi però è cambiato molto dalla fine degli anni Ottanta, quando i Simpson videro la luce. Altri tempi. Impossibile pensare alla genesi della famiglia dei gialli di Springfield nel 2013. Homer forse non sarebbe più un addetto alla sicurezza a tempo indeterminato della centrale nucleare del signor Burns, ma sarebbe piuttosto un precario, un cocopro, una partita IVA, e non sarebbe mai riuscito ad acquistarsi, forse assieme alla storica fidanzata Marge, quella villetta così bella in quel tranquillo quartiere residenziale, dove sposarsi e dove far crescere i tre figlioletti. Nessuna banca ora forse gli avrebbe concesso un mutuo. Sto volando con la fantasia, lo confesso, ma il tema è della più stretta attualità. A settembre, la 47esima settimana sociale dei cattolici parlerà proprio della famiglia, speranza e il futuro per la società italiana. Quale futuro per la più antica istituzione umana? Dalla Caritas in Veritate. La Chiesa, che ha a cuore il vero sviluppo dell'uomo, gli raccomanda il pieno rispetto dei valori umani anche nell'esercizio della sessualità. Nulla si può ridurre a mero fatto edonistico e ludico, così come l'educazione sessuale non si può ridurre a un'istruzione tecnica, con l'unica preoccupazione di difendere gli interessati da eventuali contagi o dal rischio procreativo. Ciò equivarrebbe ad impoverire e a disattendere il significato profondo della sessualità, che deve invece essere riconosciuto ed assunto con responsabilità tanto della persona quanto della comunità. La responsabilità vieta, infatti, sia di considerare la sessualità una semplice fonte di piacere, sia di regolarla con politiche di forzata pianificazione delle nascite. In ambedue i casi si è in presenza di concezioni e di politiche materialistiche, nelle quali le persone finiscono per subire varie forme di violenza. A tutto ciò si deve opporre la competenza primaria delle famiglie in questo campo, rispetto allo Stato e alle sue politiche restrittive, nonché un'appropriata educazione dei genitori. Diventa così una necessità sociale e persino economica proporre ancora alle nuove generazioni la bellezza della famiglia e del matrimonio, la rispondenza di tale istituzione alle esigenze più profonde del cuore e della dignità della persona. In questa prospettiva, gli Stati sono chiamati a varare politiche che promuovano la centralità e l'integrità della famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, prima e vitale cellula della società, facendosi carico anche dei suoi problemi economici e fiscali, nel rispetto della sua natura relazionale. È con noi in collegamento Don Cristiano Arduini, bioeticista, insegnante di bioetica e responsabile della pastorale familiare della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Cristiano. A voi, buona giornata. Uno dei difetti dei giornalisti è quello di semplificare eccessivamente la realtà. Vedono tutto o bianco o nero. C'è o non c'è adesso una crisi della famiglia? Ma direi assolutamente sì. C'è una grossissima crisi della famiglia oggi. A me verrebbe da dire anzitutto per due ragioni. Una interna, dove si tende un po' ad esasperare, a esaltare ecco, la libertà, l'individualità, la forza, l'intensità del sentimento. E dall'altra parte per ragioni esterne, per cui si tende ad avanzare spesso diritti che hanno a che fare con la singola persona, dimenticando quello che è il bene per eccellenza, il bene della comunione e quindi della famiglia. Diciamo che c'è un gioco, ecco, una cultura nella quale tendenzialmente si pensa al narcisismo e per certi versi anche all'individualismo. Sì, ma perché la Chiesa quando parla di società parla sempre, sempre a parlare della famiglia? Credo che la grande intuizione ecco, della Chiesa, intesa come popolo di Dio, come magistero, sia il fatto che la società è proprio famiglia di famiglie. È difficile ecco, pensare che i rapporti sociali si reggano su un legame di giustizia, di rettitudine, se alla base, in radice, non ci sta l'esperienza proprio familiare, di fraternità, di condivisione dei beni, di fiducia reciproca. E quindi effettivamente c'è un riandare all'origine. Ma di cosa ha bisogno? Lei prima ha parlato di questa crisi della famiglia che c'è, ma di che cosa ha bisogno la famiglia adesso? Prima, citando Homer e Marge Simpson, raccontavo come oggettivamente forse le condizioni per mettere su famiglia alla fine degli anni Ottanta sono, ce le siamo dimenticate, insomma adesso mettere su famiglia è molto più difficile, ma non c'è anche bisogno, oltre alle condizioni insomma oggettive, di ripensare proprio anche il modello stesso di famiglia? Ma a mio avviso credo che anzitutto valga la pena ribadire che cos'è famiglia, qual è l'esperienza adeguata per l'oggi. Da quello che raccolgo ecco, un po' dallo studio, un po' dall'esperienza, visto che io mi misuro con molte famiglie, purtroppo anche famiglie in crisi, mi pare che è importante far riferimento a quello che ci diceva anche il Concilio Vaticano II, ribadito da Giovanni Paolo. La famiglia cos'è? Un'intima comunità di vita e di amore coniugale, nella quale di fatto si apprende l'educazione degli affetti, delle relazioni, si apprende la laboriosità, la condivisione delle risorse, il farsi carico anche delle fragilità, vorrei dire malattia compresa, e dove si dialoga e ci si trasmette valori proprio come generazioni. È proprio di questa famiglia anzitutto che lo Stato dovrebbe in qualche modo farsi carico, anche dal punto di vista fiscale. Purtroppo sappiamo che oggi non è facile, anche con l'ammanco di risorse che c'è, però di fatto avere un orizzonte ti indica una direzione e ti dà anche slancio per camminare, ecco. Ci fermiamo qualche istante, Don Cristiano, torniamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Il bene di tutti, parliamone. Ci sarò, io ci sarò. succede sempre che su un cavallo bianco arriva un principe e porta la bella al castello, si sposano e sarà amore per l'eternità. Solo che la vita non è proprio così, a volte complicata come una lunga corsa a ostacoli dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te. Mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio riuscirà ad entrare e far danni, ti prego dimmi che combatterai insieme a me. Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con Don Cristiano Arduini, responsabile della pastorale familiare della diocesi di Padova, e appunto di famiglia stiamo parlando. Grazie per essere con noi, Don Cristiano. Sì, volentieri. Prima, citando Giovanni Paolo II, ha detto come la famiglia fosse un'intima comunità a partire dall'amore coniugale, se non sbaglio, giusto? Sì, di vita e di amore coniugale. Ecco, esiste la famiglia nucleare, appunto, il papà, mamma e figli, basato proprio sull'amore coniugale, ma esiste anche la famiglia allargata, i nonni, gli zii, i cugini. L'Italia in tutti questi secoli, a mio avviso, ma anche a avviso di molti sociologi, è stata abituata a pensare in termini di famiglia allargata, sia in campagna, nelle case coloniche, sia in città. In che modo valorizzare entrambi i modelli? Forse per riscoprire la famiglia nucleare non c'è bisogno di ripartire anche dalla famiglia allargata? Per certi versi sì, direi, nel senso che nella famiglia allargata c'era una grande opportunità di umanizzazione. Io stesso provengo da una famiglia allargata e ricordo il bellissimo rapporto con le famiglie vicine, quindi il tempo della vendemmia, il tempo del focolare domestico e anche il tempo nel quale ho presenti i nonni che con molta gratitudine così guardavano, si accompagnavano e mostravano, come dire, un grande amore tra loro. E questo me lo porto, me lo conservo nella memoria. Poi di fatto oggi vuoi il lavoro, vuoi le necessità impellenti, fanno sì che ci si sposti in giro per l'Italia, ecco, allora famiglie del sud che vengono al nord, ma anche in giro, oserei dire, per l'Europa e per il mondo. E io credo che qui la famiglia nucleare quindi laddove non ci sono radici, non c'è una grande rete, debba proprio fare riferimento a relazioni calde con il vicinato. Del resto, finché parlavi mi veniva in mente il progetto che stiamo cercando di portare avanti noi Ufficio Famiglia e l'Ufficio Caritas della Diocesi, che si intitola proprio Famiglia in Rete, nel tentativo di stimolare, di confermare certe buone prassi che ci sono in giro, che ci sono. E quando dico questo dico, beh, anzitutto rapporti di vicinato e di amicizia che permettono poi di accogliere i figli del vicino, che permettono di aiutarsi dal punto di vista anche materiale laddove magari ci sono difficoltà di lavoro. Io ho in mente un gruppo famiglia della diocesi dove chi ha perso il lavoro si è ricollocato grazie a un'altra famiglia del gruppo, e poi naturalmente quel che riguarda l'educazione fino ad arrivare alle cose più spicciole di travaso, di tradizioni, di ricette e di amicizia genuina. Quindi insomma, mettendola in breve, chi non ha la fortuna, come ho ancora io, di vivere a stretto contatto con zii e cugini, possa recuperare queste pratiche anche con i vicini, con gli amici. Credo che il segreto sia proprio qui, del resto è l'amicizia, è la rete nella quale poggiare per crescere. Mi viene in mente il proverbio africano, che però è vero anche per l'oggi e per noi italiani, per mettere al mondo un figlio insomma basta un uomo e una donna, ma per crescerlo ci vuole un villaggio. Quindi no, bella com'è. Abbiamo cominciato a parlare di famiglia, stiamo arrivando a parlare di società, ma è normale in quanto la famiglia comunque è un mattone della società. Parliamo ancora di società. In questi anni si parla tanto di coppie gay, di matrimonio omosessuale. Perché la Chiesa è contraria a quest'idea di un matrimonio che possa venire esteso non solo tra uomo e donna, ma anche tra donna e donna e uomo e uomo? Pur rispettando l'autenticità dei sentimenti che ci possono essere tra un uomo, una donna, che cosa coglie come cruciale con la Chiesa? Coglie che alla base di qualsiasi rapporto ci sta sempre la differenza sessuale, la differenza uomo-donna, e questa è un'esperienza originaria che va rispettata, che va presa in tutta la sua realtà. Naturalmente quando si dice uomo-donna si pensa al matrimonio, che è proprio il luogo nel quale sono in armonia sia l'aspetto coniugale come anche l'aspetto procreativo. Coniugalità e procreazione stanno insieme. È chiaro che lo Stato, la società, quando va a regolare i rapporti non si intromette negli affetti, questo è qualcosa di estremamente personale, va a regolare proprio l'aspetto della coniugalità e della generatività, della procreazione, quindi fa sì che i legami siano stabili, fa sì che in un rapporto di fedeltà sia garantito un equilibrio sociale. Questo è ciò che compete allo Stato e questo è il matrimonio che regola lo Stato. Poi nulla vieta che a livello personale di altro istituto o altri istituti giuridici si possono anche fissare e pattuire delle finalità anche tra uomini, tra donne e altri tipi di rapporti, insomma. Qualcuno dice piuttosto che i bambini crescano negli orfanotrofi è meglio darli alle coppie dello stesso sesso, l'importante è che li vogliano loro bene. Hanno ragione? Ma qui bisogna prendere in considerazione anzitutto quello che è il bene e il diritto del bambino. Il bambino come cresce, come si evolve anche nell'assunzione della propria sessualità? Lo fa per identificazione? Lo fa attraverso esperienze che si registrano nella sua immaginazione, nella sua memoria. È chiaro che come fa effettivamente il bambino a integrare mascolinità e femminilità se ha alle spalle esperienze, rapporti sereni con maschi e femmine, con uomini e donne? Questo comporta che cosa di fatto? Comporta che ci sia l'aspetto della cura, dell'accoglienza, che è più un principio materno, ma anche l'aspetto della forza, dell'intraprendenza, che è un principio più paterno. Ora, per un bambino la cosa migliore è il riferimento a un padre e una madre, un uomo e una donna. Il rischio è di rallentare o limitare la sua crescita e la sua evoluzione affettiva, soprattutto nel periodo dell'adolescenza. Ho avuto, concludendo proprio in breve, abbiamo 30 secondi, ho avuto lo scorso anno l'onore di partecipare anche solo per una giornata al 7° incontro mondiale delle famiglie tenutosi a Milano con l'allora Papa Benedetto XVI. Quale messaggio è partito nei confronti delle famiglie di tutto il mondo? C'ero anch'io, ho avuto la fortuna di esserci anch'io, io ne ho colto almeno due. Il primo è quello di custodire gli spazi per il riposo e la cura delle relazioni, questo in assoluto, il titolo era proprio La domenica e il lavoro. E l'altro, molto forte, è farsi carico delle famiglie ferite, segnate dal dramma della separazione, dalla prova della malattia e forse anche dalla mancanza di lavoro. E questo è un segnale molto forte anche per la Chiesa e le comunità ecclesiali, ecco, fare un po' Betania verso tutti e anche soprattutto verso le famiglie ferite. Grazie Don Cristiano per le sue parole. Abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di società, abbiamo parlato di Chiesa verso queste prospettive per una famiglia che speriamo si possa rialzare, soprattutto anche dal punto di vista economico, per cui un ragazzo e una ragazza possano in qualche modo mettere su casa in maniera più facile di come lo sia adesso. Grazie Don Cristiano. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Thank you.